signorina. Soddisfatto della risposta? Mi rendo conto. Però forse mi potresti prestare ugualmente 1000 franchi. Disgraziatamente ho finito i colori e non riesco a portare a termine il mio capolavoro. Non mi chiedi poco, io sono provvisoriamente rovinato. Non puoi farteli prestare dalla signorina? Ma vuoi scherzare? È la prima volta, ci siamo conosciuti ieri. E Chonard? Non si vede da una settimana. Senti, ti saluto. Dove vai? A casa tua, per esigere il pagamento del tuo debito. A casa mia non mi troverai. Comunque oggi non ti posso pagare. Aspetto una ragazza. Però se vuoi puoi andare a impegnare questo anello. Sta arrivando. Dai, sparisci, fila. E se poi quella ci ripensa, non avrà più il suo anello. Sono sicuro che non tornerà. È scappata con un americano. L'uomo ha un Cadillac. Ho pietà dei bambini. Li ha lasciati a me. E i miei mezzi non sono sufficienti per nutrirli. Piangono per la fame. Ogni notte. Quanti anni hanno i bambini? 14, 9, 7... 6, 3, 2, 1. E il più piccolo ha 6 mesi. Quanti ne ha messi al mondo? Eravamo giovani e innamorati. Era primavera. Era We'll be right back. può la vuole, io sa chi con la missa con l'ercau corranta, la irelli placca, missa cuca, caulema, tuo aina loistetta. Siellä huole huomisen, voi jäädä unholaan. Voi jospa kerran sinne satulaahan käydä pois, niin sieltä koskaan lähtisi en linnun lailla pois. Ja siivetönnä en voi lentää vanki olemaan. Vain aatoksin niin kauas enkä sinne käydä missä siitä satumaan. Sinne missä mua oma armain odottaa. Lennä laulu sinne lailla linnun liitävän. Kerro, että aatoksissain on vain yksin hän. Voi josta kerran sinne satumaahan käydä pois, niin sieltä koskaan lähtisi en linnun lailla pois. Lapsivetönnä en voi lentää vanki olemaan, vain aatoksin mi kauas entää sinne käydä saan. La fiammiferaia è appunto questa ragazza giovane operaia in una ditta di Cerini, di fiammiferi, la sua vita appunto depressa in mezzo al mondo almeno degli anni 90, perché lì si svolge, per cui insomma sono tutte cose tristi. E poi noi continuiamo sempre a parlare di carismatico, a farvi sentire le cose che sono fatte dai suoi film, con un altro pezzo dei Ringo Buoni. Poi qui noi continuiamo a fare il folk, ovviamente carismatico, a farlo distrattare dai folkers veri americani, cose che sono fatte sui film. In realtà invece è un folk poi particolare. Noi continuiamo sempre, come solo si può trovare carismatico, film, le cose carismatico sui film, un altro pezzo, tutte cose tristi. E poi noi continuiamo sempre a parlare di carismatico, a farvi sentire le cose sempre un altro pezzo, tutte cose tristi. E poi noi continuiamo sempre a parlare di carismatico, a farvi sentire le cose sempre un altro pezzo, tutte cose tristi. E poi noi continuiamo sempre Ladies and gentlemen, in this town there are millions of stories. This one is mine. potatoes and some wine. I was happy growing tractors for the last 20 years. Till the local commissar and my wife disappeared. What a land-grant cowboy, raising cattle on the steps. Won't you pour me another vodka? Cause I'm drinking to forget. What a load of shit. Cause it's really to forget. Alright, let me hear the little bit of guitar. Alright, I'm going to risk a bad life, ladies. Not too loud, not too loud. That's my song, that's my song. ed erano i Bongzilla con Stone Pig, tratto da un disco del 2002 che si chiama Gateway. Scriveteci per farci sapere se vi piacciono le cose di Radio Wombat, ma anche di 8 Hertz in particolare. E appunto, la mail è postawombat@incibesia.net. Serve un po' di tempo. Il ritratto è proprio bello. Dov'è la tua giacca nera? Come dove? Non la vedi? L'hai sporcata tutta. Sono rovinato. Mi ha convocato Gassot, il magnate della stampa. Sta per lanciare un nuovo giornale di moda che si intitola La Ceinture de Riz e ha intenzione di nominarmi caporedattore, ma se ci vado con questi stracci addosso può cambiare idea. Non potresti accettare l'offerta neanche vestito da granduca. Quel Gassot è un simpatizzante di destra. I tuoi principi non ti permettono di mangiare un pane intinto nel sudore del popolo. Ah, guarda che ti sbagli. Gassot in Parlamento fa parte della corrente di sinistra della destra. Ha votato per la pensione delle vedove. Inoltre conosce un'infinità di personaggi influenti e li potrei convincere a commissionare a te delle composizioni e a Rodolfo qualche ritratto. Questo cambia tutto. A che ora è l'appuntamento? Ma... alle 5. Allora non c'è tempo da perdere. Le scarpe possiamo lucidarle di nero, così anche se una è a punta e l'altra bombata, nessuno ci farà caso. Ma non posso fare a meno di una giacca nera. Pur di avere una giacca nera darei 10 anni della mia vita e il mio braccio destro. Il pittore Rodolfo abita qui. Sono io. Mio cugino mi ha detto che lei fa ritratti a buon mercato. E assai somiglianti a quanto pare. Più precisi di una fotografia, è molto dotato. Già quando andava a scuola vinceva tutti i riconoscimenti. Anche mio figlio ha vinto un riconoscimento, ha solo 7 anni. Un 7enne prodigio. Che genere di ritratto desidera, signor? Cavaliere Blancheron de Nantes, industriale dello zucchero. Ho anche scritto diversi trattati sull'argomento zuccheriero. Avrei intenzione di commissionarle un ritratto di media grandezza. Come quello? Chi raffigura? Mia madre. E quanto verrebbe di quella grandezza? Da 1000 a 1200 franchi. Dipende se si vedono o non le mani. Mio cugino mi aveva detto 500. Sa, dipende dalla stagione. I colori hanno prezzi diversi secondo il periodo. Interessante. Come lo zucchero. Precisamente. Allora facciamo 1000 franchi. Mi scusi, ma commette un errore. Con 200 franchi in più avrà anche le mani, tra le quali stringerà il suo libro sullo zucchero. È fondamentale. Mi assicurate che sarà un quadro importante? Direi di più, sarà un capolavoro. Ci occorre sapere se il dipinto verrà appeso in casa sua. In soggiorno, precisamente. Allora bisognerà ritrarla in una tenuta adeguata, in vestaglia da camera. Prego, si accomodi su questa sedia. Si tolga la giacca. Ma non ho con me una vestaglia da camera. Non fa niente, il mio amico le presterà la sua. Marcel, porta la giacca del signore in guardaroba. Perbacco, arriverò tardi a cena. Niente paura, dal ristorante giù da basso ci portano tutto quello che vogliamo. Vado a occuparmi dell'ordinazione. Ho svariate proposte da farle per migliorare il contenuto redazionale della Ceinture de Reims. Per esempio, si potrebbe, soltanto un'ipotesi, un sommesso suggerimento. Si potrebbe, per esempio, pubblicare una pièce e per illustrare la pièce, per esempio, prendere i personaggi principali, vestirli in una certa maniera e per esempio, descrivere i loro abiti secondo la tendenza della moda, dell'ultima moda, naturalmente. Beh, oltre a questo si potrebbero inventare anche altre cose, come per esempio, pubblicare un romanzo a puntate o le opere di Bob... Per 15.000. Quando posso venire a prenderlo? Domani sarà finito. Glielo porterò io. Avrei preferito pagarglielo subito. Non mi piace avere conti in sospeso. A questo riguardo abbiamo molto in comune. Purtroppo sono uscito senza soldi. Avrà il suo denaro domani. Se è così gentile da ridarmi la mia giacca. Era molto sporca, l'ho portata a far pulire. La tintoria ha voluto solo 40 franchi. E aggiungerete la fattura per il quadro. The Green D'Inferno. Ricordatevi che sabato c'è una serata benefit al Next Emerson a Firenze, appunto sulla nostra radio, cioè i fondi della serata vengono. Ricordatevi che sabato c'è regalata benefit al Next Emerson a Firenze, appunto su piace la radio, sulla nostra radio, cioè i fondi. Ricordatevi che sabato c'è una serata benefit al Next Emerson a Firenze, dice che è passato appunto sulla nostra radio, cioè i fondi bene cosa vogliono. Ricordatevi che sabato c'è una serata bene, fitta, perché il Next Emerson a Firenze dice che è passato tutto su, sulla nostra radio. Mi raccomando, ricordatevi che sabato serata bene, bene, radio uomo, c'è il Next Emerson a Firenze, su 8 sulla nostra radio. No worries, we'll fix them too. One of our Dr. Green thumbs is lean spring. But with those who pay attention, don't believe me? Just ask one of my many satisfied clients here, Jed Sanders, how well it works. Hello, my name is Jed, and I've been doing Samaritan for about 20 years. And with Dr. Green thumbs is lean spring, I don't have a 45 shotgun in them pesky bars. Thanks, Dr. Green. You're the shit. Yes, Dr. Green Thumb's got it all. I guarantee. Try my book and you'll have the chronic in no time. Dial 1-800-713-RUMS. That's 1-800-713-RUMS. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Hello. I'd like to tell you just where I'm from. In the hills where the trees grow wild with weed fields. The fucking pigs with shields holding the blue steel. Greenhouse effect with the weed connect. DEA can't keep the Green Thumb in check. HPS, God bless the whole crop. Please God, don't let me see no cops. Ready to hit the highway. Don't let the eye in the sky fly my way. Or we gonna have big trouble, that's no shit. Can't be growing without no permit. But fuck that, I study the 215 script. That way when they come, they can suck my dick. We can't grow without attention. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Blowing a fucking smoke screen. Cycles of weed are constantly grown. Somebody give me the right to the cut drones. I'd like to stop, but it feels so good. 20 plants sticking up my whole neighborhood. DEA never wanna leave Green alone. But never, ever, ever got a warrant from my home. What that funny sound knocking at the door? Sorry, Green Thumb, can't talk no more. Please don't follow me into the sun. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Hello, my name is Dr. Green Thumb. If I can't drive, then call me a cab. In my closet, the weed is dried out. Like it said, ain't no place to hide out. I don't wanna buy no weed from no cop. Get locked up and they close up my shop. That's why I buy no weed from no one. That's why they call me Dr. Green Thumb. The scientific old mystical one. Growing my crop with the rays of the sun. Come on, come on, let's see how it's done. If you see the pigs, there's no need to run. Cause some of these pigs are down with Green Thumb. But you never know what beat the outcome. You see the photo in the album. The weed is growing like my erection. Look, I never told you where I was from. Some call me real, but I'm Dr. Green Thumb. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Tratto da il loro quarto disco, ok? E, immaginatevi che succede perché c'è a un certo punto una situazione di estrema tristezza dove un gruppo di persone che si chiamano Frank, tanti Frank, vanno, cercano di attraversare la città da est a ovest o da nord a sud, cambia poco, e solo pochi di loro riusciranno ad arrivare, perché la città è molto ostile, la città li ingabbia. Succede in Calamari Union di Kaurismäki, succede che puoi pensare anche a qualcuno che ti manca o ha una vita semplicemente diversa da quella che hai, e quindi trovi un palco, pieno di strumenti. Nel palco non c'è nessuno, allora te e gli altri Frank cosa fai? Ti metti lì, il chitarrista, il primo, sale sul palco e canta, anzi suona. Me. see. And I know deep down in my heart there's no going back to the way it used to be. I remember the girl in the top blue jeans kissed so hard to fit that clean. Held me close, held me tight, down so I never turned white. Were we just chasing? Were we just chasing? Were we just chasing light? Summer heat, that old misery, drinking my first beer in a roadhouse bar. The summer long, the passion strong, discovering a love in the back of a father's car. But I remember the girl in the top blue jeans, she's so hard but kept it clean. Held me close, held me tight, looked down so I never turned wide. Were we just chasing? Were we just chasing? Were we just chasing the light? Josie, come on down with me. Ain't nothing left now but memories. Small towns change, people rearrange. There's a shopping mall where the driving used to be. I remember the girl in the top blue jeans. It's so hard to get me clean. Held me close, held me tight. Looked down, so not the girl wide. Were we just chasing? Were we just chasing? Were we just chasing the light? Were we just chasing? Were we just chasing life? One more time. Were we just chasing? Too busy to chase him. Were we just chasing life? Leningrad con voi, accompagna per tutta la puntata. Vi voglio ricordare, siamo quasi alla fine. Radio Ompad ha un grandissimo palinsesto, dalla linguistica, dalla tosca brusca, all'hip hop di Mortal Wombat, dal prod, Rovescia la medaglia, che si offende a fare. E poi ci sono anche magazzini, fuoco alle polvere, per esempio, musica, le creature, diciamo, con un pezzo sempre dei padroni dello sludge, dei capi dello sludge, che appunto sono gli Hyatt God. Listen, dead boss, and I'm